ragazzo in blue jeans che vai per la tua strada a piedi nudi e cerchi la tua libertà. Ragazzo in blue jeans, tu non puoi tornare indietro e segui la via in cerca della verità. E segui la via in cerca della verità. Ragazzo in blu.